Negli ultimi anni tutti i sindacati della scuola, anche noi come sindacato COBAS, stiamo ricevendo un quantitativo di lavoro molto importante per quello che riguarda la parte disciplinare, cioè i dirigenti stanno comminando ai docenti un numero sempre crescente di sanzioni, ci sono diversi procedimenti da debito che vengono comminati ai docenti su della base di argomentazioni che sono molto varie, argomentazioni che vanno a mancanze didattiche, mancanze professionali. È tutta una serie di elementi che in passato non c'erano, o meglio, cerchiamo di capire meglio. Il discorso è che in tutti i meccanismi della pubblica amministrazione è previsto un meccanismo di sanzione nel momento in cui un dipendente metta in pericolo oggettivo, possa creare un danno oggettivo all'istituzione, nel nostro caso all'istituzione scuola. Questo numero però è aumentato. È aumentato perché? Perché per due motivi. I dirigenti si ritrovano ad avere un potere maggiore, questo dalla scuola dell'autonomia fino ad arrivare alla 107, seppur con qualche limitazione, comunque i due dirigenti si trovano ad avere fra le mani un potere molto importante, perché possono stabilire delle sanzioni al personale docente. Questione molto particolare su cui vale la pena di prestare subito attenzione. Il dirigente in questo caso svolge tanto le funzioni dell'accusa quanto quelle del giudice, cioè nel senso muove l'accusa al docente e allo stesso tempo stabilisce la validità di questa accusa e stabilisce anche la pena da comminare. Questo numero di sanzioni è aumentato da una parte per le maggiori facoltà decisionali che hanno i dirigenti, ma allo stesso tempo perché le famiglie iniziano ad essere molto più presenti nel funzionamento dell'istituzione scuola, per cui un dirigente che riceve una lamentela da parte di un genitore per calmare l'istanza della famiglia decide di aprire una procedura da debito e quindi far vedere alla famiglia che qualcosa sta facendo. Naturalmente questo crea una situazione molto pesante, perché diciamo subito che la sanzione disciplinare, l'apertura dei procedimenti da debito, ne viene valutato il numero istituto per istituto per valutare lo stress, il cosiddetto stress da lavoro dipendente, perché naturalmente creano un carico sulle spalle dei docenti che vengono messi alla prova sostanzialmente in maniera molto frequente per cercare di vedere a che punto stanno. Numero alto di sanzioni naturalmente crea un clima all'interno del luogo di lavoro che è molto molto molto pesante, soprattutto poi quando c'è una scarsa possibilità di controllo su che tipo di sanzioni vengono stabilite, quali sono le motivazioni per cui vengono stabilite queste sanzioni e sul percorso che viene fatto. Ecco, tra l'altro mi viene anche da pensare che questo rafforzarsi, diciamo, del ruolo del dirigente poi in realtà sia andato parallelamente a un indebolirsi forse della posizione invece dei docenti in un contesto di crisi, di precarizzazione del lavoro, quindi forse anche questo è un peso. Allora, ci sono sicuramente tutti e due gli elementi, nel senso che la scuola sta attraversando una fase di profonda crisi nel momento in cui non gode di una fiducia da parte delle famiglie, da parte della comunità. I docenti sono storicamente negli ultimi 20 anni sotto attacco, vengono criticati per una serie molto vasta di motivi, per cui la scuola si ritrova ad essere in una posizione di difficoltà, non riscuote la fiducia di molte famiglie italiane. Ora, da una parte c'è questo elemento per cui le varie riforme hanno concorso a creare all'interno della scuola degli strumenti che potessero dare una risposta alla comunità, una rendicontazione, ecco quello che viene previsto nel piano di autovalutazione degli istituti, il rapporto di autovalutazione di istituto, che della scuola deve dar conto alla comunità di quello che fa e quello che non fa. Naturalmente nel momento in cui le famiglie hanno delle perplessità sull'operato del docente, alcuni dirigenti, naturalmente non stiamo parlando di tutti, ma i casi sono molto frequenti e rivolgendosi a qualsiasi organizzazione sindacale si può capire che il numero di questi procedimenti è cresciuto notevolmente ed è il problema grosso di questi anni, e il numero cresce perché da parte dei dirigenti c'è la volontà di dare una risposta, un altro segnale che si fa qualcosa per tenere a bada i docenti. Per quello che riguarda poi un corpo docente che è numericamente precario in una maniera piuttosto forte, questo contribuisce a creare quel clima di stress ed ansia a cui facevo riferimento prima. Teniamo in considerazione che se è pesante ricevere una sanzione disciplinare, essere visti di cattivo d'occhio fra virgolette per qualunque tipo di dirigente, per un docente precario che ha il timore di magari di non essere richiamato l'anno successivo, perché parliamoci chiaro, c'è una possibilità di intervento sulle graduatorie, sulle nomine, se queste non vengono fatte in maniera trasparente, e come COBAS e coordinamento precario della scuola scuola di Bologna e Modena, da tempo chiediamo una trasparenza nella procedura di nomina. C'è il timore, per chi è precario, di non essere richiamato l'anno successivo, meccanismo che teoricamente non sarebbe possibile, ma che purtroppo si evidenzia come percorso, per cui c'è un'idea di ricattabilità, c'è un'idea di essere costantemente sotto esame, tanto da parte delle famiglie quanto da parte degli organi dirigenziali della scuola, che contribuiscono per l'appunto a creare un clima poco sereno e l'idea di essere costantemente attenzionati da parte di tutti quanti, cosa che influisce naturalmente anche sul lavoro che si svolge in classe con i ragazzi, che perde in un certo senso di naturalezza. A questo punto ti chiederei, secondo te, intanto sulla base anche appunto dei casi che come sindacato vi vengono segnalati, quali sono poi i professori, diciamo, che più subiscono questo clima, e anche dall'altra parte se ci puoi fare proprio qualche esempio concreto di situazioni di questo tipo. Allora, parto dalla fine. Ci sono stati di recente, sono saliti agli onori della cronaca, diciamo, il caso lampante di Torino, in cui un docente è stato messo in discussione per delle scelte didattiche da parte di un dirigente, il quale aveva già dei procedimenti penali in corso, quindi una situazione già di per sé piuttosto nota. Questo è successo a Torino, ci sono stati dei casi a Milano e ci sono casi e casi che si registrano veramente da tutte le parti. Anche in Emilia Romagna iniziamo a registrare, se non è la norma avere un atteggiamento e trovare delle scuole in cui si respira un clima pesante, però iniziamo a ricevere molte segnalazioni. È difficile dire poi chi sia il docente messo sotto sguardo. Nel 2015 l'Associazione Nazionale Preside aveva prodotto questa definizione di docente contrastivo, cioè un docente con cui è difficile lavorare, difficile collaborare, quando poi bisogna cercare di capire cosa voglia dire essere contrastivi, perché come in altri casi che sono stati registrati per l'appunto in Lombardia, viene passato per docente contrastivo un docente che magari fa sentire la voce dei lavoratori in sede di contrattazione sindacale, quindi quando l'RSU, la rappresentanza sindacale, e il dirigente sono su un piano paritario, però vengono fatti passare per contrastivi perché magari fanno troppe domande, chiedono troppe informazioni, puntano un po' i piedi in sede di contrattazione. Il problema grosso è che da parte di dirigenti, da parte di molti dirigenti perlomeno, si viaggia su un discorso anche relazionale, cioè di potere all'interno della scuola. Chi non risponde in maniera adeguata a un certo tipo di linea imposta dal dirigente può essere attenzionato per l'appunto, e alla fine si in modo di trovare l'escamotage per sanzionarlo, quindi di utilizzare la sanzione disciplinare, che è un meccanismo previsto dal contratto collettivo nazionale, previsto dal funzionamento, dal regolamento della funzione pubblica, utilizzarlo come strumento di potere per colpire un docente che non risponde in maniera adeguata. Poi è difficile capire quale sia questo tipo di elemento e quale possa essere il profilo. Sicuramente questo crea un clima all'interno delle scuole che è un clima di profonda sfiducia, di poca serenità e di paura vera e propria, perché si ha il timore di poter essere colpiti in un modo o nell'altro da una sanzione.